By the way, where is TikTok from? China. China. It always goes back to China. But it was a great rally. We had far more people than Joe Biden would ever have. Buongiorno Giulia. Ciao Giulia Crivelli. Ciao, buongiorno. Una nota di leggerezza, insomma, questo era l'imitatore più bravo di Trump, John DiDomenico, che dopo il rally a Tulsa, Oklahoma, di sabato sera, che come forse avrete sentito si teneva in un posto che con una capienza di circa 20.000 persone, si calcola ce ne fossero 8.000, e naturalmente questo non ha fatto piacere a Donald Trump, siccome tra le ipotesi, smentita peraltro dagli organizzatori, c'è che con una sorta di bombardamento da parte, e un passaparola precedente su TikTok, il social network dei filmati brevi molto amato dai giovani, ci sia stato una sorta di boicottaggio perché hanno prenotato dei biglietti che poi ovviamente non sono stati utilizzati, sì. E allora naturalmente Di Domenico dice, beh, guardate un po', ma TikTok in effetti è un social network che viene dalla Cina. Durante questo discorso a Tulsa, Oklahoma, Donald Trump, ed è per questo che c'è stato questo, poi quest'ironia, ha di nuovo chiamato il coronavirus e la malattia che provoca COVID, il COVID-19, l'ha chiamata Kung Flu, cioè l'influenza appunto cinese che ha origine in Cina, così come la famosa arte marziale. E oggi ne parlano molti giornali di questo primo rally, che appunto avrebbe dovuto essere una fase 2, la chiameremo noi, dopo il lockdown della campagna elettorale di Trump, e il discorso è sembrato molto, molto aggressivo prima di tutto, perché tutte le voci contrastanti sono state chiamate thugs, cioè delinquenti, e probabilmente Trump molto sulla difensiva, anche perché domani esce il libro di cui abbiamo parlato di John Bolton, The Room Where It All Happened, la stanza dove tutto accadde, naturalmente lo studio ovale. E Bolton, quindi, insomma, che se non sbaglio, sui giornali americani c'è... Bolton, che se non sbaglio, ha già detto che voterà per Biden, no? Chissà poi sì, con quali conseguenze reali. Sì, è un personaggio, reali. Diciamo... Sì, non proprio il massimo della coerenza, ricordiamo che non è andato a testimoniare alla House of Representatives per l'impeachment, poi però ha dichiarato ex post che al Congresso sarebbe andato, ma il Senato, come sappiamo, è controllato dai repubblicani, quindi non lo avrebbero chiamato, perciò insomma... Vedremo, insomma, quando questo libro, le anticipazioni sono già numerosissime, è già il best seller del 2020, perché possiamo dire questo? Perché le prenotazioni sono altissime, sia nelle librerie fisiche, sia naturalmente su Amazon. L'altro tema sui giornali americani, soprattutto il New York Times, è questo licenziamento a insaputa, pare, del diretto interessato del procuratore di New York. Il Dipartimento della Giustizia americana ha questa facoltà di licenziare i procuratori generali dei singoli mm-hmm. stati. Quindi vedremo, perché appunto il diretto interessato ha detto che non ne sapeva nulla, al suo posto dovrebbe andare, scrive anche il Wall Street Journal, l'attuale presidente della SEC, l'equivalente della nostra Consob. E vedremo, perché questo sembrerebbe, anche Trump ha detto che non ne sapeva nulla, ma purtroppo c'è ormai uno scollamento tra le dichiarazioni ufficiali e poi la realtà, che non fa che dividere ulteriormente l'elettorato americano a pochi mesi dalle elezioni. Verrei in Europa, in Germania, dove so che si discute molto sui giornali, si analizza molto la questione del nuovo focolaio nello stato del Reno-Vestfalia, no? Al mattatoio. Sì, se vuoi abbiamo un breve audio, il presidente di questo Land, che appunto ieri ha fatto un discorso molto breve alla televisione, e poi ti traduco esattamente la parte che ho preso, perché credo che come sempre sia sul tema che a te è caro, cioè quello delle scuole. Le scuole. Ma sentiamo il governatore. Und ich kann mir vorstellen, wie schwer das einem Kind zu erklären ist, dass es jetzt nicht mehr in die Kita darf, worauf es sich so sehr gefreut hatte, und dass es nicht in die Schule darf. Ho sentito Schule Kinder forse? Esatto, e perché il presidente del Land ha detto prima, non possiamo escludere il lockdown, sì. Quindi preparatevi, perché se la situazione non migliora potremmo anche farlo, e soprattutto non posso che immaginare come sarà difficile, schwierig, per i genitori spiegare ai loro bambini che Abbiamo scherzato, vi abbiamo rimandati a scuola, eravate contenti di rivedere tutti i vostri compagni e adesso niente, si torna indietro. Quindi davvero, come abbiamo già sottolineato settimana scorsa, di questo possibile lockdown nel nord Reno-Vestfalia e magari in altri luoghi ove scoppiassero altri focolai, cosa che Angela Merkel non aveva mai escluso né il ministro della salute Spahn, la preoccupazione maggiore resta quella delle scuole, un po' l'opposto di quello che succede in altri paesi. A me ha colpito molto invece la storia di questa industria della macellazione della carne, insomma, le condizioni in cui lavorano questi lavoratori, non avevano neanche gli indirizzi di casa, insomma, non una bella pagina per la Germania dal punto di vista anche industriale questa. Sì. E infatti ci sono anche, per esempio, oggi la Süddeutsche Zeitung e altri quotidiani e anche la Bild che ama, diciamo, buttarsi a pesce negli scandali, dice che è tutta l'industria, è tutta la filiera della carne, quindi anche con la parte di macellazione che ha bisogno di una seria riforma e che ci vogliono nuove regole anche per i contratti che si fanno. La maggior parte di questi lavoratori in questa fabbrica in particolare viene dall'Est Europa. In Spagna invece, anche se abbiamo pochissimo tempo, che accade? Ma il titolo che mi ha colpito di più è quello della Razón, che titola che se calcoliamo dall'inizio del lockdown in Spagna, che più o meno è come quello italiano all'inizio di marzo, ci sono state due cause al giorno in media contro il governo o le istituzioni locali per la mala gestione dell'epidemia, quindi insomma sicuramente più di quelle che in questo momento ci sono in Italia. Sono cause o di privati o di associazioni per appunto la mala gestione o delle strutture sanitarie o di altre strutture. Grazie Giulia, abbiamo tantissima pubblicità, ci risentiamo domani, oggi con Valeria Bernardi regia, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao da Alessio Maurizi, buona giornata.